gira sul muro della morte e sorride per non aver paura e sorride fingendo d'essere forte alle porte della città. Mentre combatte la vita, la più disperata, con mani d'acciaio, con cuore d'acciaio, e dirà, ti pensa e ti ama, tu preghi per lui, non piangere, non stare in pena, se lui rischia ogni giorno la sua vita, non cercare di cambiare la sua sorte, la sua vita è il muro della morte. La vita, la più disperata, con mani d'acciaio, con cuore d'acciaio, e gira, ti pensa e ti ama, tu preghi per lui, non piangere, non stare in pena, se lui rischia ogni giorno la tua vita, non cercare di cambiare la sua sorte, la sua vita è il muro della morte, la sua vita è il muro della morte, è il ragazzo del muro della morte.